Dunque, mi presento velocemente, poi vi dico di che cosa vi vorrei parlare oggi e poi se possibile vi darei già la parola prima ancora di parlare. Intanto io mi chiamo Gaia Vicenzi, sono una psicologa, una psicoterapeuta, faccio una serie di cose nella mia vita tra cui fondamentalmente ho un'attività privata dove ho dei pazienti e mi piace moltissimo trattare disturbi legati all'ansia. E poi sono formatrice in tante realtà di formazione, mi piace insegnare. Il perché io sia arrivata a parlare di comunicazione, prima tra me e me e poi tra me e gli altri, è legato al fatto che nel corso della mia formazione personale, partendo da una base in cui lo psicoterapeuta mi si insegnava è una persona che porta via il malessere, ho iniziato a discutere tra me e me, grazie poi all'aiuto della psicologia positiva, sull'importanza anche invece non di togliere il malessere, ma di aumentare il benessere. E quindi, aumentando il benessere, mi sono interfacciata con una serie di ambiti di formazione. Tra questi la felicità, quindi ho fatto dei corsi sulla felicità, tra questi l'abbigliamento e quindi sto promuovendo un corso sull'importanza dell'abbigliamento, della cura del proprio aspetto e tra questi l'aspetto importantissimo della comunicazione con gli altri. Visto che sia per quanto riguarda la felicità, sia per quanto riguarda l'abbigliamento, sia per quanto riguarda la comunicazione, stiamo parlando di situazioni in cui io sono in relazione con qualcuno. Allora, io partirei con una brevissima premessa teorica e poi, senza aver detto ancora nulla, vorrei sapere da voi quali sono le vostre richieste, le vostre domande, le vostre aspettative rispetto ad oggi. È vero che nella presentazione è stato dato un riflesso sull'aspetto della comunicazione in famiglia, io oggi scivolerei un po' su questo, visto che gli astanti sono per la maggior parte avvocati, altre persone, io parlerei della comunicazione in generale, però è vero che la comunicazione è un campo così esteso che vorrei proprio sapere da voi anche che cosa vi aspettate che io vi dica. Io credo di sentirmi pronta a rispondere alle diverse domande, però semplicemente voglio introdurvi in una cornice di riferimento e dentro questa cornice se vi do degli spunti già di interesse mi piacerebbe che me li rimandaste. La cornice dentro la quale mi colloco, al di là della macroarea che vi ho già detto della psicologia positiva e quindi dell'aumento del benessere, la cornice dentro la quale mi colloco ha a che vedere con le abilità di vita, cioè con le life skills. Adesso c'è sempre una traduzione real time dei termini italiani, queste life skills è un termine che viene anche utilizzato ormai nel protocollo psicologico italiano, cioè le abilità di vita, ciò che ci serve per stare nel mondo. E dentro a ciò che ci serve per stare nel mondo ci sono anche le abilità di comunicazione. Le life skills sono organizzate in tre segmenti, ci sono le abilità di vita legate alle emozioni e alla gestione delle emozioni e quindi è per questo che mi occupo di ansia, di gestione dello stress, di gestione delle emozioni. Ci sono delle abilità di vita più legate alle cognizioni, quindi capacità di prendere decisioni, di risolvere problemi, di senso critico, e ci sono le abilità di relazione. Qui dentro abbiamo la comunicazione efficace. Ecco, quindi il passaggio dentro il quale io mi sto muovendo è: partiamo dall'attenzione alla qualità della vita, cerchiamo di aumentare la qualità della vita. In che modo possiamo aumentare la qualità della vita? Riducendo il malessere ma aumentando il benessere. In che modo possiamo aumentare il benessere? Con delle competenze. Quali sono queste competenze? Quando parlo di life skills sto parlando dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice dobbiamo imparare a fare questo. Per imparare a fare questo abbiamo la gestione delle emozioni, abbiamo delle abilità più cognitive, abbiamo la comunicazione. Sto adesso portando il riflettore sulla comunicazione efficace che poi ha a che vedere con le relazioni a tutto tondo, sia quelle intime sia quelle assolutamente più estese e saltuarie o assolutamente invece occasionali. Ci siete? Bene, fatta questa premessa vi vengono spunti, osservazioni, domande, perplessità, richieste particolari, muovetevi anche, vorrei su due piani, quello personale, non assolutamente intimo, e quello professionale, visto che molti di voi sono qua anche professionalmente. Cosa vi piacerebbe sentire parlare? Di cosa vi piacerebbe sentir parlare? Intanto io sto dando per scontato che mentre io parlo di comunicazione ci sia una condivisione di che cosa sia la comunicazione. Su questo tutti avete ben chiaro che cos'è la comunicazione. Fatemi domande. Posso? Prego. Uno spunto subito per sì. Il volo, perché ho capito il suo, penso di aver capito il suo scopo professionale, quello di dire aumento il benessere a fronte di un malessere comunque latente, sì. E mi sta bene, però da profano volevo chiedere come si pensa quantomeno di risolvere comunque il malessere, perché io dico aumentando il benessere, è vero che sposto il problema sul benessere e quindi prospetto una compensazione a quello che è il malessere, mm-hmm. Però il malessere comunque rimane. Sì. Quindi come si riduce, perché è vero che, ripeto, posso pensare positivamente, posso ricercare la felicità, posso arrivare o darmi dei traguardi per realizzarmi in maniera soddisfacente, quindi arrivare anche a un benessere intimo, però personale o professionale, quello che vogliamo, però il malessere comunque rimane, nel senso, la testa ogni tanto gioco forza va anche lì, per cui purtroppo sappiamo anche, ripeto, forse sto sbagliando anche l'ambito, però, chiarissimo. Sappiamo che per quanto uno possa essere poi preso dal benessere, quando la testa va sul malessere, anche l'ho capita, le rubo la parola, perché penso di aver capito il cuore. Ci sono due aspetti tecnici che, a proposito delle domande, ho guardato l'orologio, volevo rimandarvi. Uno è il fatto che io vorrei parlare insieme a voi, vorrei che parlassimo insieme per un'oretta, alle 11:15 penserei di chiudere questa comunicazione. L'altra cosa che mi sono dimenticata, poi arrivo subito sulla sua risposta, è che mi ha detto l'avvocato, ma volete di ricordare che questo è un seminario accreditato dagli avvocati, grazie anche al dottor Ianco, e mi sono dimenticata di dire questo. Detto questo, ritornando su di lei, prendo una parte della sua domanda, che è quella parte che mi muove a parlare di comunicazione, perché la domanda sarebbe assolutamente estesa. Nel senso che lei mi dice, se una persona sta male, è vero che io aumento il benessere, ma il malessere che fine fa? Allora, rispetto a questo, io le rispondo. È anche vero che nel momento in cui aumento il benessere, il malessere si riduce. Quindi non è che scompare, ma se io aumento il mio capitale di benessere, da un punto di vista proprio energetico si riduce il malessere. Allora le riporto la domanda sull'aspetto della comunicazione. Se, e allora mi interesserebbe sapere da parte vostra quali sono le vostre difficoltà nella comunicazione a proposito di malessere. Adesso sto mettendo l'accento su ciò che non va. Se io imparo a comunicare bene, è chiaro che diminuisco il mio comunicare male. Quando parlo di comunicare bene e comunicare male, sto parlando di efficacia della comunicazione. È chiaro che c'è un altro fronte, ovvero il fronte emotivo, perché se io comunico male, anche perché ho uno strato emotivo particolarmente disagevole, per cui ho ansia sociale, ho ansia di parlare in pubblico, pensando agli avvocati, ho ansia di esprimere il mio punto di vista davanti a un cliente piuttosto che davanti ad un giudice, è chiaro che se io mi sento più competente diminuisco la mia percezione di inadeguatezza, e quindi mentre io diminuisco la mia percezione di inadeguatezza sto lavorando anche life skills sugli aspetti legati all'emozione. Ma è anche vero che se lavoro sugli aspetti dell'emozione, da un punto di vista cognitivo sono più performante. Ho risposto? Sì, più che altro è una risposta che mi sembra professionale, nel senso di l'avvocato che ci sono tanti, che si trova davanti appunto a un'altra figura, un altro soggetto del diritto, sapendo di non essere preparato o avere delle lacune, è chiaro che l'ansia aumenta. Viceversa, se io mi sento più preparato o più sul pezzo, l'ansia. Però questo è un discorso professionale, secondo me. Beh, se io ho ansia sociale, relazionale, è proprio un aspetto legato alle mie relazioni, quindi non necessariamente legato alla professione. Certo è, però poi vorrei riportare l'attenzione sulla comunicazione, che se una persona è depressa o soffre di attacchi di panico, non basta lavorare sul benessere, certo che sì, però non è solo riducendo il malessere che io aumento la qualità della vita. All'apice di questa piramide io ho messo la qualità della vita, quindi non è detto che una persona, non so qui quante persone soffrono di attacchi di panico, spero zero, presenti 20 persone che soffrono di zero attacchi di panico, non so se tutte possono dirmi che hanno una buona qualità di vita. Ok? Altri pensieri, suggestioni? Prego. Quello che vorrei imparare facendo di qua è un rapporto terapeutico medico-paziente, malattia cronica. La mia tendenza in realtà è quella di interpretare le emozioni degli altri, ma non sono le loro, e quindi di dire tante cose, di comunicare, di anticipare, e in realtà poi di trovarmi a dire cioè lui voleva comunicarmi qualcosa, ecco, faccio sempre molta difficoltà a distinguere ciò che io provo, se fossi nel paziente, nel paziente, ma ciò che veramente prova. Bene. La comunicazione non è efficace. Certo, no, è un domandone, spero davvero di riuscire a dare le risposte o almeno gli spunti su cui riflettere. Di certo nella comunicazione medico-paziente ci si gioca un fronte professionale, nel senso che io devo dare delle informazioni, ma si gioca anche un aspetto emotivo e quindi devo gestire delle emozioni mie. E allora rispetto a questo introduco già un concetto importante, il fatto che quando noi ci esprimiamo in una relazione personale tendenzialmente, ma anche professionale, poi dipende qual è il range di intimità che non posso superare, quando noi ci esprimiamo per essere assertivi, ecco, una delle parole con cui vorrei che voi tornaste a casa è l'assertività. Per essere assertivi io devo innanzitutto comprendere le mie emozioni, sapere come sto in quella situazione e poi esprimerle. Quindi in una comunicazione medico-paziente, se io sono a disagio, vale la pena, senza pianti e senza un'empatizzazione troppo estrema, ma se io provo il disagio sono molto più vibrante con l'altro se comunico che sono a disagio. Io parlo delle mie emozioni, sempre stando su un livello di comunicazione che non è l'apertura che dà adito all'idea di essermi violentata, cioè di aver detto troppo, ma d'altra parte non deve essere neanche quella situazione per cui io sento che sto provando delle cose da un punto di vista emotivo e da un punto di vista di comunicazione verbale sto dicendo delle cose che in qualche modo non sono coerenti con quanto dico. Se io sono agitato, medico, e dico al paziente ma stia tranquillo, da un punto di vista di dissintonia, quella è assolutamente presente, allora io posso dire guardi, davvero sono dispiaciutissimo, per lo sento, cioè sono anch'io a disagio nel dire queste cose, esprimo la mia emozione partendo dal pronome personale io sono in questa situazione. E mentre sto parlando del medico sto parlando dello psicologo, che però non può dire la sua situazione è terribile, io non sono assolutamente presa da queste emozioni, ma sto parlando anche dell'avvocato, sto parlando delle altre professioni e sto parlando anche delle altre persone che sono in relazione con qualcuno, per cui se io provo uno stato emotivo che mi fa vibrare, mi fa capire che in quella situazione l'aspetto non è solo cognitivo, è anche quello che provo, ben venga esplicitarlo. Può essere esplicitato in maniera assolutamente veloce, sono a disagio, mi sento in una situazione di difficoltà. Se siamo invece in un aspetto relazionale più empatico, sto pensando al partner, a un familiare, ma anche a un cliente con il quale la relazione è andata via via costruendosi, posso anche dare un nome alla mia emozione. Adesso sto quindi uscendo dall'aspetto del medico, o magari anche sì, posso dare un nome di emozione che è l'ansia, che è la tristezza, che è la rabbia, se un assistito non fa quello che io gli ho detto di fare. Attenzione, è una rabbia che io sto provando, che io sto comunicando all'altro, non con l'obiettivo di cambiare l'altro. Quindi io non ti sto dicendo sono arrabbiato e quindi mi pretendo da te, ma ti sto facendo capire come mi sento io. Perché è proprio facendoti capire come mi sento io che io riesco a entrare in comunicazione con te. Perché altrimenti io mi sento in un modo, ti sto dicendo delle altre cose, l'altro con un'altra probabilità comprende che c'è una comunicazione non sintona e quindi gioca anche lui su due piani. A quel punto abbiamo quattro attori, le due emozioni, due cognizioni che viaggiano in maniera assolutamente ostacolantesi. Allora come si comunica la rabbia in quel caso, senza che l'altro la percepisca? Ma lo dico, io in questo momento mi sto davvero arrabbiando. Basta. E poi magari posso spiegare se c'è un motivo e se allora la spiegazione... E che rischio c'è che l'altro lo percepisca come devo fare quello che diceva lei? Ottimo. Se io temo questo, attenzione sempre appunto che i non detti sono molto più pericolosi dei detti. Io posso dire, sono molto arrabbiato perché lei non ha abbandonato suo figlio a scuola e doveva andarlo a prendere. È chiaro che allora suo marito avrà tutte le ragioni di... Io ti sto facendo capire che sono arrabbiato e ti sto dicendo anche il motivo per cui sono arrabbiato. Sto facendo un livello aggiuntivo perché io potrei anche essere arrabbiato e non sapere perché sono arrabbiato. Oppure, paziente, sono molto triste ed è chiaro che sono triste per la tua condizione. Se però la mia attenzione va alla richiesta di cambiamento, cioè mi piacerebbe che tu cambiassi, allora io posso anche esplicitare questa cosa, no? Stando molto attento a fare sì che la mia richiesta vada sul cambiamento specifico e non sulla persona in generale, cioè con il cliente viene bene, nel senso che lui quella volta ha lasciato il bambino a scuola, quindi ti chiederei la prossima volta di ricordarti che hai un figlio. Però questa cosa non è sempre così tranchant, nel senso che non è che è quella singola cosa. Allora qual è il rischio? E qui sto introducendo altri due temi, quello della passività e dell'aggressività. Il rischio qual è? Che io, molto arrabbiato, adesso abbiamo preso un'emozione, quella della rabbia, ma va veicolato questo che vi sto dicendo indipendentemente dall'emozione. Il rischio qual è? Che io poi critichi non il singolo comportamento, ma la persona. Vi chiedo di allontanarvi dal piano professionale, di ragionare un po' più sul piano personale. Quante volte arrabbiatissimi con una persona a cui volete bene avete detto tu sei un cretino, un deficiente, capisci niente, eccetera, eccetera, no? E vi siete mossi dal comportamento alla persona. E a quel punto la critica è andata alla persona, dandogli però poca possibilità di apprendere uno strumento per venirgli incontro, perché siete stati troppo generici. Allora anche rispetto al paziente, se io riesco a dire al paziente in relazione alle mie emozioni che cosa può fare nello specifico, ben venga. Quindi sto facendo una sintesi di quello che vi ho detto, poi mi muovo sul fronte della passività e dell'aggressività e poi ritorniamo in carreggiata, ma sto creando un albero con diversi rami. Il discorso è, se io ho un aspetto emotivo, lo esplicito perché in primo luogo io mi piaccio se esprimo il mio elemento emotivo con quella dimensione comunque di controllo delle emozioni. Qui vi sto dicendo due cose, che io devo capire che emozioni sto provando, che non è semplice, e le devo esplicitare a me stesso e agli altri quando sono in una relazione. E potrei chiudere qui. Ma ci può essere una finalità dell'espressione delle mie emozioni, quella di richiedere un cambiamento. La richiesta di cambiamento è rivolta non alla persona, ma allo specifico comportamento che in quella situazione ha agito e che ha dato adito a me nello sviluppare una determinata emozione. Se io faccio questo, inizio ad avanzare sulla strada dell'assertività. Che cos'è l'assertività? È la capacità di esprimere me stesso, le mie opinioni, i miei pensieri, i miei punti di vista, rispettando però anche quelli altrui. Se io sono assertivo, non sono passivo, provo rabbia e non te lo dico, provo tristezza e non te lo dico, ma non sono neanche aggressivo. Provo rabbia e te lo dico, ma non considero assolutamente il tuo punto di vista, esisto solo io. Quindi, ritornando alla rabbia, se io mi esprimo, e poi c'è tutto un aspetto legato alla comunicazione non verbale, come lo dico, se io esprimo la mia rabbia volta a criticare l'altro, a demolirlo, a minimizzarlo, a sbeffeggiarlo, sì, è vero, ho espresso la mia emozione, ma non avrò quella dimensione di positività della mia immagine che invece preservo se sto al centro, quando sono assertivo. È una... Prego. Però, nel momento in cui il comportamento è talmente reiterato, poi uno necessariamente, secondo me, diventa un attacco alla persona, perché allora io, cioè, mi viene da pensare, allora tu sei così, cioè io posso contestare il comportamento e cercare di isolarlo, ma se poi è sempre, diciamo, la stessa cosa, certo, poi diventa, penso, normale anche nella comunicazione poi rifarsi sulla persona. Vero. Però chiediamoci sempre qual è il nostro obiettivo. Il nostro e rispetto a questo io non sto dicendo che l'obiettivo deve essere X, sto dicendo che dobbiamo chiederci qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è criticare la persona, farla sentire svilita, criticata, io raggiungo quell'obiettivo, in termini di efficacia lo raggiungo. Ma se il mio obiettivo è generalmente questo, è quello di produrre un cambiamento, modificare una situazione, allora io vi chiedo, quante volte nello svilire una persona, nel criticarla, nell'aggredirla, avete ottenuto la richiesta di cambiamento? Mai. Cioè io sto pensando all'educazione dei figli, ma in generale anche col partner o anche nell'ambiente lavorativo, no? Si dice in un'ottica strategica, ci sono tante forme di psicoterapia, io rappresento la psicoterapia cognitivo-comportamentale, ma c'è la psicoterapia strategica che dice tutte le volte che noi abbiamo un problema mettiamo in vita dei tentativi di soluzione del problema, però quei tentativi di soluzione del problema non sono altro che il problema stesso, cioè se io ho una relazione inefficace con una persona e penso che la relazione possa diventare efficace criticandolo, la critica è esso stesso oggetto del problema, ciò che mantiene in vita il problema. Allora, rispetto a questo, la domanda è assolutamente lecita, perché io adesso sto teorizzando, sto raccontando una situazione e poi uno si dice, beh, io che faccio? Allora, rispetto a questo, il fronte su cui bisognerebbe traghettare è la dimensione che l'altro, così come abbiamo provato con tentativi reiterati di soluzione del problema, non lo possiamo cambiare. L'unica cosa che possiamo fare è cambiare noi stessi in relazione agli altri. Quindi possiamo cambiare i nostri comportamenti riferiti all'altro, il nostro modo di reagire all'altro. E qui, cambiando il nostro modo di reagire all'altro, entrano in scena altri due aspetti. Uno già assolutamente citato, l'aspetto emotivo. Io intanto devo essere consapevole delle mie emozioni e le posso esplicitare. E poi l'aspetto reattivo, perché generalmente se io provo rabbia, se provo tristezza, se provo ansia, se provo una serie di emozioni, c'è un aspetto sempre reattivo, automatico a queste. Tutte le volte che mi arrabbio alzo la voce, tutte le volte che mi arrabbio piango, tutte le volte che mi arrabbio tiro una sberla. Allora, questo connubio è ormai associato da un punto di vista comportamentale, cioè provo un'emozione e reagisco. A quel punto l'aspetto interessante, sto teorizzando, mi rendo conto che la pratica è un'altra, però mi piacerebbe che a proposito delle cose da cui, su cui riflettere oggi e con le quali poi andare a casa, mi piacerebbe che arrivasse l'informazione che noi stiamo parlando di cose che possono essere apprese. Quindi io non sto parlando di una teoria magica, sto dicendo possiamo lavorare su questi aspetti. Allora vi do già un compito mentre mi ascoltate, poi ritorno su di lei. Mentre io oggi mi muovo in questo albero a cui voi state dando i rami, provate a pensare delle cose che vi sto dicendo, quali sono quelle che vi vengono peggio, perché quello diventa l'aspetto su cui lavorare in questo tempo. Per cui se ci viene peggio esprimere le emozioni, se ci viene peggio data l'emozione non reagire, se mi viene peggio non comprendere le mie emozioni, fin qua siamo arrivati qui, se mi viene peggio essere passivo, se mi viene peggio essere aggressivo, lavorerò mettendo l'accento su uno di questi poli. Tornando a lei, l'aspetto della reattività, allora uno degli elementi è proprio ho delle emozioni, e so che date queste emozioni tendenzialmente rispondo in maniera automatica ed impulsiva. Se io riesco, date queste emozioni di cui sono consapevole, a bloccarmi nell'agito, ho già cambiato parte della mia reazione all'altro. Poi, generalmente, anzi sempre, quando io lascio decantare le emozioni e le emozioni non hanno, cioè io sono d'accordo assolutamente con lei quando lei dice una cosa reiterata, è sempre così. La cosa bella è che l'emozione dura poco, cioè quando io provo rabbia, per quanto la cosa sia reiterata, per quanto il rapporto sia un rapporto intimo, quella rabbia lì non dura infiniti momenti. Tutt'al più la posso far ricrescere se ripenso alla situazione, ma se io, tolta la situazione, sto facendo una passeggiata, sto correndo, sto facendo la doccia e riesco a stare nel momento presente, quella rabbia lì decanta. Quindi è proprio quando l'emozione scende che io in maniera gentile posso, gentile quindi assertiva, posso comunicare con l'altro. Altrimenti è proprio una comunicazione emotiva che mi serve a sfogare, magari mi serve a sfogarmi in quel momento, ma non risolve il problema. Se mi serve a sfogarmi in quel momento, generalmente poi c'è un'altra persona che mette in pista poi un aspetto di dinamica, per cui magari non mi sono neanche tanto sfogato in quel momento lì. Mentre io mi esprimo in questo modo, mi state seguendo? Sto andando troppo su una direzione che io conosco, ma che essendovi sconosciuta vi porta a perdervi, o va bene? Ok. Altre suggestioni? C'è sempre il dubbio, però sono più domande, che modificandomi io verso la persona che ho davanti, come diceva prima, dopo un comportamento reiterato, se l'altra persona non capisce che io mi sto mettendo al suo livello, tra virgolette, nel senso per comunicare meglio, poi rischio di legittimare un comportamento oltretutto reiterato. Sì, se fossi passivo. Attenzione, io non è che sto legittimando il suo comportamento, eh. Io sto dicendo... No, io, da parte mia no, dall'altra parte ho il dubbio che poi capisco. Ma io allora glielo dico se ho questo dubbio, cioè il discorso è, se io ho dei pensieri, sono assertivo se li esprimo, ho il dubbio che lui stia percependo che io sto legittimando il suo comportamento e temo a questo punto di dare un'immagine negativa di me, a me stesso e forse anche all'altro, ma comunque io non mi piace perché dico guarda quello là adesso pensa che a me va bene così, no, perché allora andiamo sul fronte passivo, cioè l'immagine che io sto costruendo di me stesso è un'immagine che io non voglio dare a me stesso, in primis, in secondo luogo poi non la voglio neanche dare perché so che magari l'altro pensa di me che io sia troppo connivente con lui. Allora io glielo dico guarda, a me questo tuo comportamento non piace e mi fa anche arrabbiare. Io sto lavorando su di me per reagire in maniera diversa, ma fino a che tu metterai in atto questo comportamento il problema rimane, non è che lo abbiamo risolto. Cioè, vi faccio un esempio banalissimo, proprio mi viene l'esempio più banale del mondo, relazioni coniugali. Mio marito non porta fuori la spazzatura, il problema è che lui non porta fuori la spazzatura. Io voglio che lui porti fuori la spazzatura. Io gli dico che sono molto amareggiata per il fatto che nonostante gli abbia detto reiterate volte di portare fuori la spazzatura, lui non sta collaborando nel fare questo. E che però sto cercando di non arrabbiarmi così tanto, ma per me è davvero un aspetto di disagio e anche di dolore, perché posso anche enfatizzare, no? Non mi sento rispettata in questo, che lui non porti fuori la spazzatura. E ogni volta che lui non porta fuori la spazzatura, io gli racconto della mia emozione, senza agire alla stessa. Allora io mi piaccio, la spazzatura rimane lì e rimane lì. Però io mi piaccio perché non ho agito in maniera da soccombere all'emozione, sono stata padrona di me stessa. Ed è anche molto probabile che se sono padrona di me stessa e rimando all'altro un'immagine positiva, l'altro almeno mi ascolti di più. Poi, Se è cronica la sua incapacità di buttare la spazzatura, a quel punto sono io che devo accettare di avere un marito che non butta fuori la spazzatura. E se non riesco ad accettare che mio marito non butti fuori la spazzatura, allora devo accettare che quella persona non vada bene per me. Cambio la situazione. Io cambio la situazione e la mia reazione alla situazione. In linea con i miei valori di vita, nel senso che se per me il valore dell'ubbidienza è un valore importantissimo e io non posso stare con una persona che non mi ubbidisce, allora io mi piaccio perché in coerenza con i miei obiettivi ho lasciato mio marito. Se il mio valore è quello della famiglia, allora io scelgo di andare in quella direzione e dico, tutto sommato, la spazzatura non è l'Isis. Ok? Cioè, attenzione, l'obiettivo è sempre la qualità della vita. Se alla fine il fatto che io riesca a tollerare la spazzatura non è un sono passiva in quest'ottica, ma sto lavorando con le mie emozioni per aumentare la mia qualità di vita, indipendentemente dal fatto che nella mia vita ci siano delle cose che non mi piacciono, perché adesso ho fatto l'esempio spazzatura, ma ci sono anche delle malattie. E allora questo aspetto della mia tolleranza della vita ha a che vedere con cose che nel caso della spazzatura potrei cambiare, cambio marito, ma ci sono anche delle cose che non posso cambiare. Prego. Infatti volevo dire, nella fonte di lavoro, quando hai delle colleghe con cui è impossibile comunicare, loro comandano anche se ripari livello, e certo, poi chiedere il trasferimento, possono anche non dartelo. Certo. Come si sopravvive in queste situazioni? Stavo guardando se c'è una lavagna. Allora, quando c'è un problema, generalmente noi abbiamo tre modi di rispondere a questo problema. Mi sto allontanando un po' dall'aspetto della comunicazione, ma non credo di essere così distante dall'aspetto delle relazioni. Quando c'è un problema, noi possiamo agire, reagire a questo problema in tre modi. O lo evito. Quindi mio marito non butta fuori la spazzatura, la mia collega, prendiamo la collega, la mia collega è terribile, cerco di evitarla. Evitarla vuol dire non le parlo, magari non vado neanche più al lavoro, cerco di proprio allontanare il problema. Questa è una tentata soluzione, a proposito dell'approccio strategico, vi dicevo prima delle tentate soluzioni, che generalmente non è mai vincente, perché se io evito un problema che esiste, quando questo si ripresenterà, la sua ripresentazione avrà un effetto assolutamente molto più amplificato rispetto all'effetto che aveva all'inizio. Questo è verissimo nei rapporti nei disturbi d'ansia, ma anche nelle relazioni dove un quid d'ansia c'è sempre, cioè se la mia collega mi fa rabbia, ma anche mi provoca ansia, se io la evito una volta, quell'evitamento mi produce una sensazione di benessere, dico, ah, meno male, me la sono tolta. Però questa sensazione di benessere dura poco e quindi quando si ripresenta il problema, questo problema ha un'intensità maggiore e quindi io, quando eviterò di nuovo quel problema, avrò ancora un benessere maggiore nell'averlo evitato. Ma poi il problema si ripresenta ed aumenta. Quindi l'evitamento generalmente non è mai una soluzione, a meno che io non abbia paura delle iguane e le iguane sono solamente, che ne so, non so dove siano le iguane, a Formentera, e io non ci vado a Formentera, vivo bene andando ai Caraibi. Ho fatto un esempio stupido, ma è chiaro questa cosa. Se io posso vivere bene andando ai Caraibi e non andando alle Seychelles, ma sì, questo è un evitamento che funziona. Però le altre due forme di risoluzione del problema più vincenti sono, uno, la capacità di risolvere il problema gestendo il problema stesso, quindi stando sul compito, e l'altra, la gestione del problema stando sulle emozioni. Allora, sul compito, cioè sul problema stesso, chiedo un trasferimento, che non è evitamento, cerco proprio di, perché a quel punto se chiedo un trasferimento non si presenta più il problema a collega. Piuttosto che chiedo un part-time, piuttosto che chiedo che sia costruito un muro tra me e lei e io posso accedere solamente alla mia area con una particolare password. Cioè cerco proprio di stare sul compito. rispetto alla spazzatura di mio marito, cerco di trovare una negoziazione con lui, per cui giorni pari la porto io e giorni dispari la porta lui, piuttosto che io butto il vetro e lui butta la plastica, cioè cerco in qualche modo di stare sul compito e di risolvere il compito. Ma ci sono delle situazioni per cui vedi malattie, vedi la morte, per cui non è che io posso molto elaborare il compito. Io devo stare sulla gestione emotiva di quello che il compito genera in me. Per cui se la mia collega non la cambio, non la posso evitare e ho fatto di tutto all'interno del contesto lavorativo per modificare questo compito, allora devo stare con le mie emozioni. Stare con le mie emozioni vuol dire gestire le mie emozioni in maniera tale che queste di nuovo non prendano sopravvento su di me e guidino il mio comportamento in maniera tale che poi io non mi piaccio perché il mio comportamento è stato troppo emotivo. Quanti di voi sulla scia di un comportamento emotivo, cioè dove hanno sentito di non avere il controllo, si sono piaciuti? No. Quindi se io comunque, al di là del fatto che la situazione non la posso modificare, mi posso modificare me stesso e soprattutto l'aspetto emotivo. È perplesso? No, dico, purtroppo so, banalmente dico, diciamo, quando però succede, nel senso che... Certo, attenzione. Anzi, potrebbe essere una liberazione in quel momento. Non ho capito. Potrebbe essere una liberazione, ecco, una situazione magari momentanea, però... Sì, allora, rispetto alla soddisfazione momentanea, vi ho detto, se in quel momento lì mi ha aiutato, sì, poi dipende appunto quali sono gli effetti. Attenzione, io non è che sto professando una teoria e sto dicendo che questa è la perfezione, noi dobbiamo diventare agenti perfetti. Sto dicendo che se io lavoro su queste cose, allora riesco anche più a controllarmi, e se poi c'è quella volta che non mi controllo, pazienza. Introduco un tema legato all'assertività. Vi ho detto che l'assertività è la capacità di esprimere se stessi, pensieri, emozioni, punti di vista, facendoli valere, ma rispettando quelli degli altri, quindi non vado sul fronte aggressivo, ma appunto avvalorando le proprie posizioni, non vado sul fronte passivo. Questa è la definizione di assertività. Nello specifico l'assertività, qualcuno dice, è la capacità di far valere i propri diritti. Allora qualcuno si è chiesto, ma chi sono cosa sono questi diritti? E è stato creato tutti hanno detto insomma una serie di diritti, io nel mio libro credo di citarne 16, uno di questi diritti, adesso ve ne cito qualcuno, uno di questi diritti è il diritto di scegliere se essere o no assertivo, cioè c'è quella volta in cui io c'ho proprio le scatole girate e voglio, caspiterina, togliermi questa sorina dalla scarpa, per cui ho voglia di dire che mi stai antipatico. Ma lo scelgo io, non è l'emozione che sceglie il mio comportamento, sono io che volutamente dirigo il mio comportamento in balia della mia emozione perché ho voglia finalmente di sfogarmi. L'ho scelto io, l'aspetto è proprio quello della scelta. Chiaramente, mentre faccio questo, devo avere sempre l'idea del controllo e devo avere l'idea che mi sono piaciuto. Entrando nel tema dei diritti, ve ne cito qualcuno per farvi capire cosa sono i diritti. Per esempio c'è il diritto di scegliere se essere o no assertivo, c'è il diritto di dire di no quando uno mi fa una domanda, c'è il diritto che mi piace tantissimo, e allora mentre io vi do questi spunti di diritti provate a pensare quanto riuscite a metterli in atto e quanto riuscite invece con difficoltà. Adesso sto guardando il medico. Il diritto, anche qui sono sulla teoria, poi un conto la teoria, un conto la pratica. Il diritto di non offrire ragioni o scuse per giustificare il proprio comportamento, cioè se io ho un comportamento X e mi sento in qualche modo in colpa per questo comportamento, a disagio, tendo a giustificarlo. Non vengo stasera, non esco stasera perché ho la febbre. Ma io non è vero che ho la febbre. Ok, questa è proprio una bugia, ma talvolta magari non andiamo sulle bugie, andiamo su una serie di giustificazioni che non sono necessarie. Io non esco stasera perché non ho voglia, E anche dal punto di vista medico-paziente, talvolta se ci sentiamo a disagio tendiamo a giustificare certe scelte. Se è così, è così. Un conto è la giustificazione, un conto è l'informazione, nel senso che se io ti do questo farmaco, perché quel farmaco va a agire con questo principio attivo su una determinata cosa, è informazione. Ma non devo giustificarmi se in qualche modo io sento di essere ridondante in questa informazione, che sono a quel punto troppe. Quindi sicuramente il diritto di non offrire ragioni o scuse per giustificare il proprio comportamento, ma anche un altro diritto è il diritto di essere indipendentemente dalla benevolenza degli altri, cioè, e anche qui sto pensando al medico, non è che io devo essere sempre ben voluto, ben accetto, sempre che tutti mi vogliono bene. Questo è un aspetto della propria identità. Se io non ho voglia di uscire stasera, ma se io in qualche modo ho paura di dire certe cose, questo è qualcosa che ha a che vedere con la mia immagine personale, e quindi io comunque salvaguardo la mia immagine personale indipendentemente da quello che gli altri possono pensare di me, anche perché se l'altro si rende conto che io sono sereno nella mia situazione, in quella specifica situazione, alla fine mi accetta, mi apprezza, ok? È sempre l'idea, e qui rientriamo nelle life skills, di stabilire delle relazioni efficaci e dello stabilire delle reti di supporto efficaci, per cui se una persona mi critica su un determinato comportamento ma ha un'immagine positiva di me, alla fine è lì che si instaura la rete, quello che poi dà luogo al capitale relazionale e sociale. Un altro diritto, per esempio, è il diritto di dire non so, cioè se una persona mi chiede qualcosa, anche qui sto pensando al medico, ma sto pensando anche all'avvocato, ma sto pensando in generale nella vita, se una persona mi chiede qualcosa e io non la so, posso anche dire serenamente non la so, senza dare ragioni o scuse per giustificare il fatto che non la sappia. Non siamo onniscienti. Un altro diritto, poi mi fermo qua sull'aspetto dei diritti e mi piacerebbe sapere i vostri punti di vista, è anche il diritto di dire non capisco, che è diverso dal dire non so le cose, oppure non capisco certe cose, non le capisco da un punto di vista cognitivo, ma non le capisco anche da un punto di vista emotivo, cioè non capisco davvero perché tu non butti la spazzatura, pensando alla collega, non capisco davvero perché ti incaponisci a fare questa cosa. Già utilizzando incaponisci sto entrando su un aspetto di giudizio, però io te lo posso chiedere proprio perché non capisco. E questo, poi mi fermerei un istante, però il collegamento tra questo e un altro aspetto dell'assertività mi è troppo liscio per non andarci. Questo ha a che vedere con la capacità della persona assertiva di fare delle critiche o di ricevere delle critiche, nel senso che noi prima siamo andati sull'aspetto della critica e vi ho detto la critica è assertiva quando io esprimo le mie emozioni e chiedo volendo un cambiamento. Però è anche vero che poi ci fanno delle critiche. Allora, rispetto alla capacità di gestire le critiche, una di queste possibilità, quando uno ci muove una critica che davvero non capiamo, è, in maniera anche qui condita da un non verbale importante, di chiedere perché, il perché di così. Io non capisco, se una persona mi dice sei sempre in ritardo, io cerco sempre di spaccare il minuto, ti dico ma non capisco da quant'è che sono state, ma non in maniera aggressiva, cioè fammelo capire, perché poi magari in maniera curiosa, magari sono così selettiva negli aspetti di attenzione cognitiva sul fatto che arrivo sempre puntuale, che le rare volte che arrivo in ritardo non le vedo e ti chiedo, non capisco, puoi spiegarmi? Quindi rispetto a questo, quando c'è una critica io posso fare un'indagine, non capisco, piuttosto che se io arrivo sempre in ritardo, dire sei sempre in ritardo, io so che sono sempre in ritardo, dire è vero davvero, ti chiedo scusa ma è vero, chiuso, disarmo dell'aggressività, piuttosto che se una persona mi fa una critica ed è una critica molto estesa, Io prendo di questa critica solo quello che sento di poter gestire. Sei sempre in ritardo, non sei una persona affidabile, quelle volte che ti presto qualcosa lo perdi. Allora io che sento di poter gestire meglio il fatto che perdo le cose, lavoro solo su quello, annebbio il resto e lavoro su quello. Oppure un'altra tecnica è quella appunto dell'annebbiamento. È vero, ti do ragione su questo, ma penso che c'è anche un motivo per cui sono sempre in ritardo. Mi avete seguito su questo? Quindi possiamo fare delle critiche e possiamo accettare delle critiche. Possiamo accettare delle critiche se vere, raccontando che sono vere, se secondo noi false, chiedendo spiegazioni, se in parte vere, in parte false, cercando in qualche modo di negoziare, ma non offrendo ragioni o scuse. Aggiungo un altro pezzettino, sto guardando l'orologio, abbiamo ancora 10 minuti, quindi poi volevo fare una sintesi, ma volevo anche dare luogo alle domande. Io ho detto 11:15, poi se ci sono cose non è che ho il treno, ma se qualcuno ce l'ha, cioè, è liberissimo. Nel momento in cui sto parlando di critiche, l'altro aspetto assolutamente parallelo e simmetrico è una capacità, a proposito di abilità di vita, non solo di criticare, ma anche di apprezzare. Allora c'è la capacità di fare complimenti, ma c'è anche la capacità di ricevere complimenti. E generalmente, almeno poi datemi anche il vostro parere, quando io parlo alle persone, queste mi dicono sì, io i complimenti li faccio, non è detto che tutti li facciano, però siamo sempre un po' riottosi o comunque responsivamente negativi nell'accettare un complimento. Tendiamo a minimizzarlo, tendiamo a banalizzarlo, tendiamo in qualche modo a non accoglierlo. Quindi se una persona mi dice che bel maglione, ma sì, è vecchio, ma sì, l'ho pagato 10 euro, è vero? Sì. Allora, che cosa sortisce questo comportamento? Come? No. Niente. Cosa sortisce questo comportamento? Il fatto che se una persona mi fa un complimento e io, ed è anche un comportamento reiterato a proposito di continuazioni, e io ogni volta che mi fa un complimento lo banalizzo, la probabilità che questa persona continui a farmi complimenti declinerà. E quindi anche il nostro rapporto, no? È un rapporto che è meno emotivamente piacevole. Questo a proposito anche di colleghi, ci sono un sacco di studi che dimostrano che se io incentivo il positivo si autoreplica. Quindi se io dico ad un collega, guarda, mi ha fatto proprio piacere che tu mi abbia fatto questo favore, la probabilità che lui me lo rifaccia aumenta. Ma se lui mi fa un favore e io non gli dico niente, cosa mi dice? Anche coi bambini. Anche coi bambini. Anche coi bambini il rinforzo è assolutamente una tecnica educativa e pedagogica. E rispetto a questo, poi davvero andrei in chiusura, ma mi attendo da voi pensieri. Il collegamento logico che mi viene da dire mentre parlo di complimenti, visto che in una parte del mio libro parlo di comunicazione nei tempi anche dei social network e delle media, non è tanto un complimento, ma sicuramente è un rinforzo quando riceviamo un messaggio, una mail, rispondere a questo messaggio, a questa mail, anche solo dicendo ricevuto. Se poi dopo mi chiede qualcosa, gli posso anche dire ricevuto, ti rispondo con calma. Non con quell'ansia per cui se ricevo una mail ti devo rispondere dentro 5 minuti, ma se mando una mail e dopo 2 giorni io non ho ricevuto risposta, questo, il fatto di non aver ricevuto una risposta, è comunque un comportamento aggressivo. Quindi io posso anche semplicemente dire, guarda, è un periodo in cui sono proprio presissima, ho ricevuto, ti rispondo con calma. Ho ricevuto, ci rifletto, ho ricevuto, non riesco a risponderti perché è una questione importantissima e complicata, meglio sentirci al telefono. Ho ricevuto, non saprei come risponderti e quindi non vorrei più tornare sulla questione, ma almeno ho ricevuto. Perché se io mando mail e non ricevo risposta, la probabilità di ricevere mail poi diminuisce, non perché io sia alla ricerca di mail, ma sono alla ricerca di relazioni efficaci. Che differenza c'è tra questo concetto e la buona educazione? Non credo nessuna. Però mentre ci sono... Non credo che ci sia nessuna differenza. Il fatto è, da un punto di vista sociologico, adesso non voglio farla lunga, che un'educazione su internet, almeno alle persone della nostra età, non ce l'abbiamo avuta. Cioè nessuno a scuola mi ha spiegato. Però ci hanno spiegato ad essere, avere delle buone maniere, rispettare gli altri. Vero, però rispetto a questo io assolutamente non voglio legittimare le persone che non mi rispondono. Attenzione, quando io mando una mail e non mi rispondono dopo 2 giorni, io la rimando, e se non mi rispondono la rimando dopo 2 giorni. E dopodiché la rimando dopo 2 giorni, alla fine tutti mi hanno risposto, tranne una persona che ce l'ho ben presente. E ce l'ho proprio ben presente perché dico, caspita Lina. Attenzione, quando io rimando la mail non è che faccio copia e incolla, dico hai ricevuto la mia mail del, e la copio, e dopo 2 giorni lo rifaccio. Rispetto a questo, a proposito della socializzazione su internet, è il fatto che per quanto sia stato creato un galateo di internet, si chiama Netiquette, è disponibile online, netiquette.com, ognuno ha, come in tutti gli aspetti di comunicazione, comunque si è creato un suo protocollo di risposta. C'è chi risponde subito, c'è chi risponde dopo 2 giorni, c'è chi risponde un sacco, c'è chi risponde rimandando alla telefonata. Quindi l'eterogeneità delle risposte fa sì che non ci sia una vera e propria codificazione delle stesse. Vero è, sono d'accordo appunto, che se ti mando una mail ti rispondo, però alcune persone rispetto a questo secondo me non sono state educate a rispondere alle mail. Cioè ho ricevuto e non te lo dico. Cioè c'è proprio un aspetto di non consapevolezza di questo. Per questo le persone secondo me vanno anche un po' educate. Poi se c'è una volontà, tipo questa persona mi ha mandato 3 volte la mail, se non c'è una non volontà, allora non è tanto non educazione. Non saprei cosa sia, magari uno ha l'ansia, io poi dopo cerco sempre di legittimare tutti, c'ha l'ansia, è depresso, uno che è depresso per mandare una mail ci mette 7 giorni, quindi non è che io devo invadere il campo altrui, questo qua magari è depressissimo, piange la mattina alla sera, gli ho mandato una mail e lui dice ma cosa vuole sta qua, magari. Poi, sì. Anche per i colleghi presenti, noi per esempio la codice di metodologico, non ci si è potenziale mai. Noi siamo obbligati a rispondere alla corrispondenza di colleghi. C'è un articolo che ci ha obbligato. Ah, ecco. Vabbè, io questo non lo sapevo, interessante, sì, lo citerò. Chi ci dà c'è dei colleghi che proprio allegramente. Ok. Io lo dicevo in situazione, ma non sono in particolare, perché è un'aria. Bisogna mangiarla, bisogna rimangiarla la piazza. Magari dicendo semplicemente ricevuto non riesco a risponderti, sì, poi è così adesso, ma perché questo ci fa bene, ho capito? Sì, giusto? Perché poi sì, esatto, perché dico almeno se ho risposto un tranquillo con me stesso, ho un'immagine. Per noi è un fallimento, sì, giusto? Esatto, la sì, sì. La risposta la leggiamo come sì, un fallimento, no? Sì, ottima riflessione e voglio risintetizzarla, ripuntualizzarla, poi farei una sintesi delle cose che ho detto e dopo darei luogo, se volete, alle domande oppure ci salutiamo. L'elemento cardine che vorrei che fosse arrivato oggi è il fatto che tutto quello che vi ho detto è finalizzato alla costruzione del proprio benessere in maniera molto egoistica. Quindi, tornando alla famosa spazzatura, io sto lavorando per stare meglio io, in considerazione del fatto che lavoro per stare meglio io quando sono in relazione con gli altri, poi c'è tutto il discorso del lavoro sul mio benessere anche quando sono da solo, mantenendo un'immagine positiva di me. In che modo io mantengo un'immagine positiva di me? Con una comunicazione assertiva. Che cos'è la comunicazione assertiva? È quella che esprime se stesso rispettando gli altri, quindi non essendo aggressivo, ma nello stesso tempo non essendo passivo. In che modo lo faccio? Esprimendo i miei diritti, esprimendo le mie emozioni, richiedendo dei cambiamenti se penso che la richiesta di cambiamenti sia possibile, cercando di criticare in maniera costruttiva, ma anche cercando di creare un clima di solidarietà con le persone attraverso dei rinforzi e dei complimenti che nello stesso tempo devo sapere accettare. Mentre facevo questo riassunto, mi avete seguito? Ecco, se vi sono arrivati questi concetti, se ognuno di voi, adesso appunto passerei alle domande o semplicemente a un feedback che mi faccia capire se avete saputo individuare nel mio percorso dei punti critici nella vostra comunicazione, ben venga, perché già se avete saputo individuare dei punti critici c'è una consapevolezza degli aspetti su cui lavorare, che può essere un elemento che mi piacerebbe avervi offerto per continuare nella propria, nel proprio avanzamento. Rispetto a questo aggiungo un'ultimissima cosa pratica, visto che prima chiacchieravamo. Io oggi ho fatto tanto riferimento all'immagine pensando alla propria identità, cioè chi sono io. Io sto lavorando nella mia mente un sacco sul tema dell'immagine e ho capito che comunque l'immagine, cioè non è che ho capito, l'ho scoperto l'acqua calda, però ho capito che l'aspetto dell'immagine ha a che vedere anche con l'immagine corporea. E quindi, parlando di immagine corporea, non posso non pensare all'abbigliamento. E sono circa 2 anni che sto studiando questa cosa dell'importanza dell'abbigliamento. Ho fatto un seminario che ormai è partito a Milano, che è rivolto prevalentemente agli psicologi. Però mi piacerebbe provarmi, quindi appunto c'è un foglio che gira, se volete lasciarmi la vostra mail volentieri, mi piacerebbe provarmi una giornata, intendo un'oretta come questa, a raccontarvi i miei punti di vista, ma rivolto anche agli avvocati o alle altre persone, comprendere un po' la vostra idea di come curate o non curate l'abbigliamento, dandovi degli spunti scientifici, nel senso che io sto studiando proprio sulla letteratura scientifica, ce n'è pochissima, però esiste, sull'importanza dell'abbigliamento nella identificazione del proprio sé. Quindi rispetto a questo, in chiusura e anche con un stacchetto su un possibile altro incontro, volevo rimandarvi in questo aspetto. Ok, detto questo, a proposito degli spunti che vi ho dato, c'è qualcuno che si porta a casa un dubbio su cui lavorare? Premesso che ci sono persone, poco tempo già dato 1000 spunti, perché poi certo. Sono anche collegati tra di loro, per cui da certo. Questi si aprono altri panorami. Sì, sì. Considerate che è un'ora che io parlo. Infatti, quindi sicuramente sarebbe anche piacevole poi magari proporre anche l'incontro. Detto questo, ci stiamo su due particolari, poi. Sì. Tornando sull'ultimo concetto, sull'ultima ipotesi, vuoi dire, ha detto, più mando me, più, cioè più mi sento in pace con me stesso. Mm-hmm. Più rispondo alle mail. Più continuo a rimanere alle mail senza risposta, però più mi sento in pace con me stesso, no? Detto questo. No, lei diceva, io rispondo alle mail, nel rispondere alle mail di una persona, invece di stare silente, mi piaccio perché non sono stato in silenzio. Capito che... Giusto. Sì. Ho capito che più volte mi mando la mail, più volte allora... Ma è la stessa cosa, cioè il concetto è che mi piaccio. Sì, infatti, quindi, questo punto però... Che vuol dire che se non vuoi rimandarla e ti piaci così, benessere per te, fine. Sì, sì, bravissima. Perché poi invece il rischio, secondo me, era più la rimando, più magari... E magari mi arrabbio. Più di più perché non ricevo con risposta. Per cui c'è il rischio che dalla parte e quindi prendo il telefono e dico adesso però gli rispondo, sono soddisfatto di me stesso e dico ho provato di tutto e quindi non ho fatto niente di intentato, però rischio poi di cavarmi ancora di più perché più ti mando più poi non mi risponde, allora il cliente ti dice l'avvocato di controparte ti ha risposto la quarta volta che ti scrivo ti dico vai per paese, forse io lo chiamerei, gli chiederei perché non mi risponde. Esatto, allora attenzione, io c'è un'escalation che non deve essere un'escalation di aggressività, ti mando la mail più volte, è vero, perché poi il problema è che dobbiamo andare all'obiettivo. Ok, dobbiamo andare all'obiettivo, quindi poi alla fine telefono. Se telefono più volte e non mi risponde, adesso sto facendo proprio lo scenario delle conseguenze, allora è il discorso della spazzatura. A quel punto devo stare io con le mie emozioni e gestire le mie emozioni. Cioè, anche perché è vero che stiamo parlando di professione, però la professione fa parte di una bella fetta della nostra identità. A proposito, sono in gioco sempre tante emozioni nostre, clienti. Certo. È certo. Sempre... Non solo, però, poi, cioè, il problema è che è possibile, non è escluso, che essendo tanto, essendo grande parte del nostro impegno quotidiano, molte emozioni poi si portano a casa. Ecco, sì, anche quello. O comunque il rapporto col prossimo, certo. Il perché sono sul lavoro, sono obbligato anche a gestire, comunque. Allora, ci autogiustifichiamo del fatto magari anche di essere aggressivi, secondo me, perché sì, spesso tra noi abbiamo... Però è quello che ha detto lei, che l'avevo detto sì, io, sì, però è stata efficace. Quello che dice lei, cioè l'importante alla fine è che mi piace, se io poi mi piaccio nel mandare a quel paese quella persona con una serie di parolacce, va bene. Attenzione, però c'è un altro aspetto a proposito di quello che dicevate voi. Non sempre posso, ma se, allora se non posso e lo faccio, perché noi siamo liberi di fare tutto. Ma io ci vincola un po'. Beh, mi posso radiare dalle... cioè, pensiamo allo scenario delle peggiori conseguenze, mi radiano dal lago, ho perso ciò. No, ancora molte, sì, ho fatto quel peso cliente, quando vorrei fare molto spesso volentieri. Cliente poi mi saluta. Va bene, lo scenario delle peggiori conseguenze è che il cliente mi ha salutato. Lo scenario delle peggiori conseguenze è che non avrò più clienti. Attenzione, c'è sempre uno scenario delle peggiori conseguenze. Ritorno un po' su quello che stavate dicendo, ovvero il fatto che se io con certi clienti, barra colleghi, barra persone, ho un mio stile comunicativo, per cui se tu non mi mandi una mail, io sappi che te la rimando e poi te la rimando e poi ti telefono, li educo almeno rispetto non alla popolazione in toto, ma rispetto a me stesso, al fatto che io sono un caterpillar, cioè se ti sto mandando una mail, sappi che non ti mollo. Allora forse sapendo questa cosa, uno, e due, tre, quattro, alla fine ti risponde. Ok? In questo... Anche il silenzio è una risposta, in quel senso lì. Se faccio una domanda e non ricevo una risposta, il silenzio è la risposta dentro l'interesse della persona a rispondere e interrompere con me. Vero, verissimo. Certo. Sollecitare quella risposta. Sì, sì, allora. Cosa ti dà benessere. Esatto. Per esempio, faccio un esempio. Io mi occupo di tumori, sono un medico. Mi capita alcune volte di avere davanti paziente neoplastico che mi aggredisce. E in quel momento l'emozione, la prima emozione è di mandarlo via dall'ambulatorio, ma non mi darebbe gratificazione, non mi darebbe benessere, esatto, assolutamente. È anche successo alcune volte, ho dato sfogo alla rabbia dei 5 minuti, dei 3 momenti, però non stavo bene dopo. E impari piano piano, credo, a cercare il tuo benessere nel concedergli di essere aggressivo con te, perché lui sta morendo, perché lui ha la rabbia della morte, della malattia davanti, e quello mi dà benessere, che io sia lo sfogo del mio paziente, mi dà anche benessere, quindi ti prescrivo l'TAC nonostante tutto, non voglio fare il trattamento, devi farlo, quello mi dà benessere. Se mi desse benessere come medico mandarlo via, c'è qualcosa che non va nell'essere medico, io credo questo, torniamo sulle ci sono colleghi che credono diversamente, questo credo dai racconti che mi fanno i pazienti esista anche un medico diverso da come siamo molti di noi, insomma, però cercare il benessere credo che sia il silenzio, per me è una risposta, fine, per me il benessere è questo, ho capito che il tuo silenzio è la risposta, la mia esperienza è un'altra. La mia esperienza è che il silenzio nel 90% dei casi è non ho ricevuto perché il bambino è stato male, non ho letto tutte le mail. Ho letto le mail, scusami, dopo 2 mesi, dopo 2 mesi. E non alle mail neanche, al messaggio del telefonino. Amiche con 2 figli, 3 figli che lavorano e che non hanno tempo. Dopo 2 mesi, scusa, ti chiamo adesso, ma ti chiamo perché ho letto il messaggio 2 mesi fa e non riuscivo a risponderti. E la mia esperienza è anche che quando c'è il silenzio dall'altra parte e chiudo il rapporto finisce e non lo voglio. Mi accorgo invece che se io lo nutro costantemente va avanti perché lo sto nutrendo e quello mi dà benessere. Questa è la mia esperienza, però... No, grazie mille, guardi, mi ha dato una serie di spunti. Volevo farle solo una domanda. Posso farle i complimenti, sì. Riprendere una cosa, proprio i complimenti, sì. Riprendere tutte le cose che hai detto in maniera sintetica e poi ridarle la parola, perché mi ha dato tutta una serie di là sui quali, sulla cresta dell'onda, proprio volo veloce perché bisognerebbe entrare. Assolutamente d'accordo su tutte le cose che mi ha detto e riprendiamo dal discorso del silenzio dal quale eravamo partiti. L'elemento è sempre io mi piaccio. per cui se io posso scegliere il silenzio e lì nel silenzio piacermi. Quando lei dice io però come medico non mi piacerei se, e mi piaccio nel momento in cui divento materasso dell'aggressività del paziente, capisco le sue emozioni, io mi piaccio perché sono in linea con i miei valori di vita. Prima vi parlavo dei valori. Allora, se gli altri medici hanno altri valori e sono coerenti con gli altri valori, si piacciono. In realtà è difficile che un medico che ha scelto la professione di medico sia coerente con i valori del mando tutti a quel paese. Evidentemente ha dei problemi legati alla sua gestione delle emozioni. E quando lei dice c'è qualcosa che non va, il rimando è sempre... io non devo giudicare me stesso, io lo sento, cioè se io sono un medico, ho deciso di fare il medico perché mi piace far del male alla gente, punture, faccio, sono un medico chirurgo, cioè proprio a quel punto non è che ho qualcosa che non va, io sono in linea con le mie attitudini e sono sereno, cioè l'indicazione è sempre l'equilibrio. Il fatto che in qualche modo io sono in pace con me stesso e assolutamente vibrante con l'immagine che io voglio, che io voglio avere di me e che poi tutto al più mi piacerebbe dare agli altri. A proposito dell'abbigliamento, io prima scelgo i vestiti che piacciono a me, poi scelgo anche dei vestiti che sento che gli altri possano ritenere adeguati, ma prima ci sono io che devo stare bene con quel vestito. È chiaro, adesso ho fatto quell'altro circuito, ma ritorno su di lei. Quindi la dimensione è proprio questa, però c'è un'altra dimensione aggiuntiva che ha a che vedere col capitale relazionale. Cioè, se io non rispondo alla mia amica e poi chiudo lì il rapporto, non solo non mi piaccio in quel momento, ma non sto, lei ha utilizzato il termine nutrendo, non sto nutrendo un aspetto proprio territoriale delle mie relazioni che ha a che vedere con il mio benessere, che si sostanzia fondamentalmente di quattro forme di capitale. Adesso sto veramente dilungando per ritornare alla sua domanda, però buttandola così. Noi abbiamo il capitale economico, i soldi, il capitale culturale, quello che sappiamo, la nostra cultura, il capitale relazionale e il capitale erotico. Dentro il capitale erotico ci sta la gradevolezza, non necessariamente sessuale, e di lì l'abbigliamento. Però poi tutti questi capitali vanno uno insieme all'altro, ma se io non rispondo alle mie amiche e rimango da sola, il mio capitale relazionale diventa nullo e non c'è persona che possa stare bene senza un capitale relazionale, questo è dichiarato. Ok, prego. Volevo solo chiedere questo, perché è così difficile, capendo la persona che abbiamo davanti sul lavoro, sul personale, cercare di comunicare la verità. Molto, ecco, faccio un discorso a parte sul fatto che ovviamente la mia verità può non essere la verità dell'altro, però quando si coglie la verità, tra virgolette, vera, cioè che sia verità per me e per l'altro, in qualsiasi maniera io abbia provato a comunicarla, quella verità ferisce sempre. Perché? Vi faccio un esempio stupido. Qualche giorno fa io dovevo assentarmi dall'ambulatorio, la collega rimaneva sola, le altre tre colleghe sarebbero dovute essere a disposizione. Ho dovuto insistere nel momento in cui andavo via dall'ambulatorio con le altre colleghe che mi sostituissero per fare delle procedure, quindi anche delle cose delicate. Quando sono tornata ho cercato di essere assertiva, cioè ho espresso la mia emozione senza aggressività, perché ho cercato di non farlo al momento, l'ho fatto in un momento di calma, ho cercato di capire cosa stava succedendo. Eppure la risposta, nonostante questo, la risposta che ho avuto è stata aggressiva e c'è stato anche un piccolo insulto sulla persona. Per farmi capire che effettivamente la collega che avrebbe dovuto sostituirmi, forse, dico io, si sentiva in colpa. Cioè la verità che avrebbe dovuto staccarsi per aiutare qualcun altro la feriva. Non lo so, perché la verità, comunicare la verità in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, ferisce sempre l'altro. Aspetta, allora, faccio una differenziazione per aver capito se ho ben compreso, ma perché penso che lei utilizzi il termine verità in maniera diversa da come lo utilizzo io. Ovvero, uno è l'aspetto della verità, pensiamo all'aspetto medico, no? Di una diagnosi, per cui pensiamo che la diagnosi sia vera. Uno è l'aspetto della critica vera, perché lei mi sta parlando di una critica vera, ok? Allora, se lei mi avesse fatto la domanda perché è così difficile dire ad un paziente che sta morendo, io non avrei una risposta, cioè riconoscerei che è difficile, potrei farle tutta una serie di disamine sul perché, ma non è che se potessimo rimanere qua 10 ore a pensare al perché è difficile, alla fine la difficoltà rimane tale, per cui secondo me è inutile cercare in questo senso di andare alle origini, ma questa è un'altra storia. Perché è difficile fare una critica assertiva, anche lì c'è un aspetto di allenamento, poi è chiaro che c'è un aspetto di relazione, perché io posso essere bravissima a fare le mie critiche assertive, ormai essere collaudata, ma allora la sua domanda non è tanto perché è difficile, ma perché è difficile che le nostre critiche assertive non sortiscano l'efficacia e l'effetto che vorremmo, ma allora andiamo sulla spazzatura. E lì però ritorniamo sull'elemento del se peraltro qualcuno mi aggredisce, perché io non solo ti sto chiedendo di buttare la spazzatura, ma te lo sto chiedendo in maniera assertiva e tu che non butti la spazzatura mi dici che sono scemo. Allora certo che l'aspetto dell'aggressività rimonta dentro di me, lo devo saper gestire. Ma se poi allora cortocircuitiamo in un aspetto di aggressività collusa non andiamo da nessuna parte. Qui sto pensando, pensavo fosse un avvocato lei, stavo pensando agli avvocati che cortocircuitano tra di loro in maniera aggressiva. Io sono consulente del tribunale nei casi di affidamento di minori e quindi mi capita di vedere davanti al giudice delle lotte, no? Ma ritornando, allora, l'elemento è proprio il dire quando c'è un'aggressività, disarmo l'aggressività, cioè in questo momento sei così arrabbiata e così furente che è inutile che adesso ne parliamo, mi piacerebbe riprendere quanto è successo in una separata sede, anche perché se quello che è successo oggi è un episodio isolato ci sta che tutti abbiamo una brutta giornata, ma mi è capitato altre volte che io ti chiedessi di sostituirmi e quella procedura non è stata fatta, per cui adesso è inutile davvero che ne parliamo. Domani sappi che vorrei riprendere con te con serenità per arrivare a una conclusione in maniera tale che poi questo problema possa essere risolto, perché per me questa cosa è un problema. Però ecco, nella comunicazione, se è avvenuta in maniera assertiva, non dovrei aver sbagliato niente. No. Ma era solo un esempio. No, no, certo. Ma il concetto è che noi potremmo non aver sbagliato niente, poi oggi non ho parlato della comunicazione non verbale, assolutamente, considerando il suo stile mi viene difficile pensare che lei sia stata aggressiva, però ci sono degli aspetti legati al non verbale molto importanti, per cui se io ti dico non sono arrabbiato con te, così, ma se dico non sono arrabbiato con te, ok, però appunto l'elemento cardine è il fatto che io dico qualcosa ma c'è sempre una persona che mi risponde, quindi questa risposta, se è una risposta aggressiva e diventa appunto, come lei mi ha detto, particolarmente aggressiva, io disarmo l'aggressività dicendo guarda, è inutile che ne parliamo adesso, e se questo va avanti allora metto in atto una tecnica, poi chiudo adesso sulle tecniche e vado davvero nella chiusura, che è quella del disco rotto, cioè ripeto sempre la stessa cosa, davvero è inutile che ne parliamo adesso, parliamone domani, allora davvero è inutile che ne parliamo adesso, parliamone domani, allora davvero è inutile, parliamone domani, senza aggiungere niente. Questa tecnica agli avvocati, non so se la conoscono, perché è micidiale, come adesso è un giudizio, quindi già sto sbagliando, è assolutamente selettivo, perché sto parlando degli avvocati che ho conosciuto davanti ad un giudice quando bisogna fare il giuramento della CTU, quindi sto dicendo una cosa assolutamente giudicante e selettiva. Però quello che osservo è proprio il fatto che poi è un vaso di Pandora, cioè c'è una critica, io non la disarmo, vado avanti e a quel punto ci si disperde. Mentre se io dicessi stiamo su questo, stiamo su questo, stiamo su questo, stiamo su questo, alla fine su quello devo stare. Risponderei sì. A lei in questo modo, cioè, perché se lei è stata assertiva, ma anche l'altro deve essere assertivo, perché se l'altro di fronte a me non ha una modalità assertiva di comunicazione, io posso essere bravissima, ma l'altro avrà i suoi problemi. Certo. Sì, per cui è la più efficace quando le due parti comunicano. Certo, certo, vero, ma questo è il mondo magico. Visto che noi non possiamo cambiare il mondo, non possiamo cambiare la nostra risposta al mondo, se l'altro non è assertivo, se è un mio collega, magari lo educo. In che modo? Lo educo disarmando l'aggressività e fornendo a lui me stesso come modello. Ma se poi, come diceva la persona che stava raccontando appunto che si è andata via del suo collega che non può che essere cambiato, magari una persona è patologicamente aggressiva, è inutile che io stia lì tanto da pretendere. A quel punto devo farne una ragione. Fare una ragione, ma siccome è un contesto lavorativo per cui per me è importante che quella persona faccia la procedura A, cercherò costantemente di rimarcare che la procedura A è importante, magari dando delle informazioni pedagogiche sul perché è così importante. Perché se tu non fai A, e adesso sto pensando agli avvocati, esiste la legge 47 che ti dice che devi fare A, fai A. Se la legge 47 è chiara, perché poi c'è la legge 47 comma B. Interpretazioni, esatto, ok. No, infatti. Fondamentalmente l'avvocato vuole avere sempre ragione. Parliamoci chiaro, certo. La comunicazione è un gioco di parti, no? L'attore, convenuto, alla fine tu fai la parte del tuo cliente, ma fondamentalmente poi si può trovare l'accordo, la transazione, la votazione assistita, tutto quello che vogliamo, ma la tendenza di base è che è un po' quella del. Io faccio valere le mie ragioni a volte anche in modo aggressivo. Certo, certo. Poi magari con colleghi con cui ci si trova tranquillamente, può succedere anche magari che però ci si scontri in una vertenza dove le posizioni certo. Sono diverse, per cui è stato un tipo di rapporto di collaborazione magari funzionato fino all'altra volta, poi in un'altra circostanza, per motivi tuoi, per motivi magari della controparte, la situazione cambia molto. Secondo me è difficile trovare un equilibrio, non la vedo io, non so se i colleghi possono dire la stessa cosa. No, sono d'accordo, aggiungo due cose poi davvero andrei verso la chiusura, ma rispetto a questo. Il lavoro dell'avvocato rispetto a questo è difficile perché poi c'è una tripla immagine, prima parlavo dell'immagine di me a me stessa e dell'immagine di me all'altro. Sempre dell'altro stiamo parlando, ma in questo caso un'immagine al collega, un'immagine invece all'assistito, per cui io devo... Ma c'è il giudice. Poi c'è giudice, quindi in qualche modo, però il giudice in qualche modo, al giudice arrivo a conclusione, è vero però, c'è anche la figura del giudice, quindi in questo caso io devo saltellare da un livello all'altro. È vero però che io se riconosco, a proposito di avvocatura, di leggi, che non ho ragione, forse mi piacerei di più nell'esplicitare questo e magari a proposito della critica dire sì è vero che ma lì ci stanno poi tutti gli aspetti legati alla negoziazione, cioè la negoziazione efficace è quella che mi porta poi a vincere io e vincere l'altro, mentre gli avvocati giocano molto in una logica vinco io e perdi tu, è il lavoro dell'avvocato, ma se un avvocato riuscisse ad andare nella logica win-win, io vinco, tu vinci, avremmo fatto bingo. Io sto semplificando un po' le cose perché uno non sono un avvocato, due, quindi è molto semplice, ma soprattutto perché io l'unica ambito che conosco legato a questo contesto è legato all'affidamento dei minori e lì quello che generalmente gli avvocati in maniera sbagliata fanno è che un genitore vince e l'altro perde, mentre in realtà la logica è che i due genitori devono vincere. Sì. Tutelare il minore, insomma. Nella tutela del minore, cioè è il valore ultimo. Per cui lì tutto sommato è più semplice, anche se, e c'è un altro strato, forse è più difficile perché proprio quando si va a toccare un aspetto quale quello del genitoriale, l'aspetto emotivo è fortissimo. Allora lì si lavora più sulle emozioni, però gli avvocati che sappiano lavorare sulle proprie emozioni, sulle le emozioni dell'assistito, non esistono, ma non esistono perché non hanno una formazione, semplicemente. A meno che non siano degli avvocati che hanno una specifica formazione in mediazione e che comunque lavorano su questo, però è un'altra cosa. Senta, sì. Guarda, perché non chiedere se è preoccupante che abbia inteso lei come un avvocato, perché visto che l'ha sposato non vorrei che fosse una cosa negativa, questo adesso parli come un avvocato, per cui... No, ma che lei non ha un avvocato? Lei pensava che fosse un avvocato, sì. Come l'ha sposato un avvocato, adesso non chiedevo se fosse una cosa positiva o negativa che intendesse come, perché forse devo preoccuparmi di questa cosa. No. Perché riguardo, adesso scendendo proprio nel personale, perché lei diceva, visto che è una questione che viene fuori, lo dico tranquillamente, quasi tutti i giorni, o comunque spesso volentieri in casa, sul capitale relazionale, lei insiste sempre, lo dico tante cose, insiste sempre sul fatto che è giusto nutrire un rapporto con l'altro. Io viceversa, sono più drastico in questa cosa qui, sostengo, perché successo può succedere, che se io devo nutrire un rapporto, una relazione con un'altra persona, per avere un riscontro forzato, perché questa persona mi può dare poi riscontro, mi può dare risposta, solo perché io parlo del rapporto personale, non del rapporto professionale. Io sono più drastico, dico, invece a lei non mi va questa cosa, perché se io devo condurre un rapporto a senso unico, non mi sembra giusto, perché se l'altra parte, se l'amico, l'altra persona comunque vuole relazionarsi con me, lo deve fare, sostengo io, in maniera spontanea, non perché sono io che univocamente vado a intestare comunque questo rapporto. Quindi le due persone sono abbastanza distinte. No, ecco. Rispetto a questo... Forse legato anche all'età, forse legato anche alla pazienza che viene. Non è che voglio essere semplicistica, ma io ritorno sempre sul fatto che... Sicuramente l'uomo ha un aspetto di identificazione e anche di nutrimento del capitale relazionale diverso dalla donna. Detto questo, senza voler essere semplicistica, ma poi lì torno e spero che appunto questo concetto sia arrivato. L'elemento è io mi piaccio, quindi se io non mi piaccio perché mi sembra di andare a elemosinare l'amicizia altrui, ben venga. Cioè a quel punto non l'elemosino se ho questa percezione. Però torniamo all'esempio che faceva allora sua moglie sulla mia amica, mi ha risposto dopo 2 mesi. Scusi, apro chiudo parentesi perché mi sembra che ci stia come inciso. Il fulcro del discorso è io mi piaccio. A questo punto qui poi dovrebbe... verso sul fatto che quanto io mi piaccio sia il giusto o quanto io mi piaccio dovrebbe essere magari modulato, modificato, perché non è giusto, non è il piacere oggettivo. Aspetta. Cioè, a volte rischio bene con me stesso, non è detto che poi sia effettivamente nel giusto. Ma non ci importa. L'importante è che noi abbiamo una percezione soggettiva di benessere, e il benessere è soggettivo. Però potrebbe essere utile... Aspetta, mi sta portando lontano, mi sta portando troppo lontano. Fammi capire se sono... Posso essere io, magari sono... Aspetta, sto andando un po' in chiusura, mi sembra che questo apra un temone. Allora, intanto c'è un livello di benessere soggettivo e questo è indiscutibile, cioè nessuno mi può dire se sto bene o se sto male, sono io che mi percepisco, ma ritornando e poi davvero chiudo. Rispetto al messaggio dell'amica che mi ha risposto dopo 2 mesi. Se io in quei 2 mesi ho continuato a pensare guarda questa che è antipatica, che non mi ha risposto, eccetera, a quel punto l'esborso energetico nel pensare che questa persona non mi rispondeva era così grande che io potevo alzare la cornetta e dire guarda mi è spiaciuto proprio che tu non mi rispondessi. Ma se in realtà poi questa cosa qua mi è anche un po' passata perché non mi rispondevo e lei mi ha risposto dopo 2 mesi e mi ha detto scusami davvero, a quel punto io sono contenta. Cioè attenzione, il capitale relazionale non è che deve essere nutrito sempre con costanza, che l'amico è quello che sentiamo una volta al giorno, no? Ma è proprio quell'idea della sono in relazione con questo, il capitale relazionale ce l'ho con qualsiasi persona che si collochi all'interno di un bersaglio proprio metaforico dove al centro ci sono le relazioni più intime e poi via via ci si disperde dal bersaglio verso l'esterno, no? A quel punto la mia amica mi ha mandato un messaggio dopo 2 mesi: certo non avrò con lei l'intimità che ho con mio marito, ma magari ho una forma di intimità diversa rispetto all'intimità che ho col calzolaio al quale porto le scarpe e chiedendo se è una bella giornata saluto. Allora, quello è il mio capitale relazionale, l'idea che non ho attriti, che va bene tutto, che alla fine io sto bene con me e con gli altri, questo è. Prego. Come si fa veramente ad arrivare a questa consapevolezza di stare bene con gli altri? Perché io mi porto a casa questo concetto, cioè il controllo delle emozioni. Io sono una che è molto istintiva, che quindi magari a volte agisce e poi dopo ci pensa dopo, eccetera, eccetera. A me piacerebbe tantissimo riuscire a controllare, perché la cosa primaria è stare bene da soli e stare bene con gli altri. Individuo subito un paio di cose, cioè io posso cercare di controllarmi sul lavoro perché non posso ad esempio mandare a quel paese il corriere che non mi risponde o avere determinati atteggiamenti. È ovvio che magari questa cosa non mi fa stare bene, cioè io mi controllo le mie emozioni, ma le mie emozioni da qualche parte prima o poi devono andare. Quindi magari cos'è il rischio? Vado a casa e magari mi è capitato di turno di me. Oppure bambini urlanti, sono mamma e quindi mi piacerebbe tantissimo riuscire veramente a cercare di incasellare le emozioni per vivere meglio io, per vivere meglio tutti. Il problema che un altro è la diversa comunicazione in tutti i vari ruoli in cui socialmente stiamo, quando dobbiamo siamo inseriti, perché lavori in un modo, a casa in un modo, con i familiari in un modo, con i figli in un altro. Guardi, le dico questo aneddoto: recentemente hanno chiesto alla scuola di mia figlia di far fare una lezione sulle regole ai genitori che in qualche modo avessero a che fare con la giustizia. Quindi abbiamo partecipato genitori avvocati, c'erano genitori magistrati, genitori delle forze dell'ordine. È stato veramente un'impresa, ci siamo guardati tutti esterrefatti, la questione di come cercare di spiegare ai bambini secondo elementare le regole, che potevano essere delle regole più semplicissime, allora interessava più che altro della scuola sulla disciplina. Poi siamo passati a far capire il ruolo dell'avvocato, è stato abbastanza complicato. E sulle leggi, che comunque ci sono le leggi e queste cose, quindi persone che normalmente dovevano essere abituate, diciamo, ad affrontare questo tipo di situazioni hanno dovuto adattare il loro registro di comunicazione a un livello, e non è stato semplice per niente, però niente è andata. Quindi a me piace molto quello che dice, mi interessa parecchio, faccio veramente non so se ci sono, appunto, come dice lei, delle tecniche, dei lavori che uno può fare, ma la vedo veramente difficile riuscire ad arrivare all'ottimo di controllare, di stare veramente bene. Ok, allora due risposte rispetto a questo, riconoscendo assolutamente la difficoltà, quindi le due risposte non vogliono essere due risposte di semplificazione e di soprattutto risoluzione. Quindi la difficoltà c'è, soprattutto quando è una difficoltà di comunicazione su più livelli, con più registri, con più persone. Però due cose. Una ha a che vedere proprio col fatto che quanto più io sono consapevole dei miei limiti, quanto più io ci posso lavorare, e quindi anche negli aspetti, per esempio, di divulgazione di certi miei saperi, io li lavoro in qualche modo per comunicare agli altri. Ma questo, se vogliamo, è più semplice, nel senso che se poi io la prima volta magari che avete fatto questa esperienza a scuola è venuto con grande fatica, l'anno prossimo se lo poteste rifare sicuramente siete più rodati. Quindi è un aspetto legato proprio alla internalizzazione delle competenze che io in qualche modo esprimo. Apro e chiudo una parentesi. Io oggi sono andata proprio a braccio nel raccontarvi le cose. Ma sono andata a braccio perché questa cosa della comunicazione ormai ce l'ho nella testa, che se qualcuno mi torturasse, io anche sotto tortura direi le cose che vi ho detto oggi, cioè proprio una conoscenza attenzione, non è che io voglio dire che io sono una persona che sa un sacco di cose, ma questa cosa qui è proprio mia, mi chiedete un'altra cosa, già ho bisogno di un altro stile di comunicazione rispetto a quello che ho utilizzato oggi. Quindi quello ha a che vedere un po' con la competenza e soprattutto, non sto dicendo che lei non sia competente rispetto alle leggi, ma proprio la capacità di esprimere all'altro, che un conto è che io so le cose, un conto è dirle alle altri. Ed è un fronte. L'altro fronte ha a che vedere dagli altri, tra l'altro tararlo rispetto a chi ho davanti, perché per esempio una difficoltà che ho avuto io martedì sera, che non ho avuto questa mattina, nel senso che vi siete ben amalgamati, martedì sera parlavo di comunicazione della coppia, avevo coppie separate, avevo avvocati. Ho fatto fatica a parlare a tutti e due. Cioè, secondo me, se dovessi rifare un'altra cosa, separerei i due ambiti, perché uno non era arricchente dell'altro, ma invece in qualche modo andava a sottrarre energia. Prima cosa. Seconda cosa, ma qui sto aprendo un altro temone a proposito delle emozioni, io oggi non ho parlato assolutamente, perché davvero ho un sacco di cose da dirvi, non vi ho parlato della mindfulness, la cito così, ma la mindfulness è la capacità di stare, dico lui riguardo lui e lei perché loro sono affezionati delle mie comunicazioni, alla fine lo sanno che arrivo sempre lì, però mi ci ha portato lei, non volevo arrivarci, siamo partiti da lì. Che cos'è la mindfulness? La mindfulness è la capacità di stare nel momento presente in maniera non giudicante, in maniera volontaria, cioè sto qui ed ora e sto nel qui ed ora senza giudizio gestendo quello che ho nel qui ed ora. Se nel qui ed ora ho delle emozioni, gestisco le mie emozioni. La mindfulness detta così, sembra una roba semplice, ma in effetti una definizione della mindfulness è che è una cosa semplice, sto qui, io vi chiedo di stare qui, non andate da nessuna parte, con la vostra mente state qui, ma molto difficile, perché mentre voi adesso mi state osservando e siete qui ad osservare me, poi la mente se ne va lontana. Rispetto a questo, a me piace moltissimo la mindfulness, io la utilizzo come strumento terapeutico. Faccio allora a questo punto un piccolo stacchetto pubblicitario, ma assolutamente finalizzato alla divulgazione del sapere. Siccome io ritengo che la mindfulness, a proposito delle abilità di vita e della capacità di gestire la propria qualità della vita, sia uno strumento che una persona deve possedere, avevo intenzione a partire dall'anno prossimo, a gennaio, di fare un ciclo di 5 incontri in cui divulgavo un po' lo strumento mindfulness a livello non terapeutico, ma proprio per la persona comune. E dove li fa? È nel mio studio, volevo farli. Comunque, se avete, mi avete... Ma sono privati o sono... No, privatamente. Cioè, uno per uno? No, di gruppo. Sì. Volevo mettere su un gruppo che non deve essere troppo piccolo, ma non deve essere troppo grande, massimo 15 persone, un incontro alla settimana. Quanti sanno? 7:30 circa, cioè adesso sto pensando a cose. Avevo pensato 5, allora lo dico, devo strutturare bene il protocollo, cioè il protocollo. Cosa voglio dire? Ce l'ho ben presente. È proprio l'aspetto pratico. Una volta a settimana per 5 settimane, pensavo il martedì, 5 incontri appunto con questa cadenza. Rispetto all'orario, pensavo alle 7:30 perché è bene non aver mangiato, perché dobbiamo fare cose anche riferite alla meditazione, quindi non bisogna arrivare con la pancia piena, sennò poi mi addormento dopo cena. Però d'altra parte uno poi ha fame, quindi pensavo le 7, tra le 7 e le 8, un'ora e mezza dura, 7, 8 e mezza, 7 e mezza, 9, sto pensando a questo, però è anche vero che non ho iniziato a pubblicizzare questa cosa, ne sto parlando qui, quindi devo darmi alla comunicazione di queste informazioni che adesso vi passo. Ecco. Bene. Posso a questo punto avervi comunicato che siamo in chiusura, non vi ho parlato di come finire una comunicazione, di certo un modo per finire la comunicazione è ringraziare e rimandare a un successivo incontro. Grazie.